fraud that and when it's fake. In una società dove tutto è merce, è logico che la natura venga devastata, il vivente saccheggiato. Sfruttamento della natura, Artura, schiavitù animale e addestricamento umano sono la stessa faccia di una medaglia arrugginita. Ma se il nemico è uno, i modi di colpirlo sono tanti. Ogni lunedì dalle 21 alle 22, Radio Possum, la trasmissione che vi diseziona lo sfruttamento. Allora, quando sono le 21:23, con discreto ritardo, su 87.9 di Radio Onda Rossa, questa è Radio Possum. Questa sera una trasmissione autoprodotta, senza ospiti. C'è un ospite interna, diciamo. Di che cosa parleremo? Allora, parleremo di brevetti biologici, di piante e in generale di biodiversità. Va bene, allora lasciamo scorrere la musica e poi riprendiamo con questa trasmissione. Yeah. allora sfumiamo Drawing Dog e DJ Malatesta per cominciare questa trasmissione. E appunto, tanto benvenuta. Allora, innanzitutto cominciamo a dire di che cosa stiamo parlando, cioè che cosa sono i brevetti sugli esseri viventi, che cosa si intende con questa terminologia. Diciamo che in generale un brevetto comporta per il titolare dello stesso l'acquisizione di particolari diritti di natura economica e commerciale di sfruttamento dell'invenzione stessa. Quindi per quanto riguarda poi il materiale biologico, diciamo che un errore comune riguarda l'idea che il brevetto biologico, cioè tramite il brevetto biologico, si possano brevettare piante o animali. In realtà quello che si può brevettare sono diciamo sostanze, per esempio chimiche, che vengono isolate o derivate dalle piante, oppure parti di organismi viventi isolati e riprodotti sinteticamente, e anche magari indicando quali sono gli usi che se ne può fare. Questo soltanto per le piante che si trovano in natura o anche per esempio biotecnologie varie quali OGM? No, per le piante appunto che si trovano in natura, cioè non possono essere brevettati i geni così come si trovano in natura appunto. E il i problemi che pongono questi brevetti biologici sono, cioè, diciamo fondamentalmente di vari ordini, cioè che c'è quello appunto più ecologico che riguarda la perdita di biodiversità, e poi anche problemi sociali quali ad esempio la perdita di sovranità alimentare o anche lo sfruttamento da parte dei paesi industrializzati delle risorse dei paesi diciamo più ricchi appunto in biodiversità e delle conoscenze tradizionali indigene che si hanno su queste risorse. E appunto parlando specialmente dello sfruttamento commerciale di conoscenze dei popoli indigeni, questa pratica viene chiamata o biopirateria da parte diciamo dei suoi detrattori, mettendo appunto in risalto l'esproprio che le multinazionali o i paesi comunque industrializzati fanno nei confronti di popolazioni indigene o i paesi meno industrializzati. Oppure si viene chiamata bioprospecting invece dai fautori, e letteralmente vorrebbe dire appunto esplorazione della biodiversità, quindi sottolineando diciamo il fine, per così dire, di questa pratica senza metterne in evidenza i punti critici per l'appunto. E poi diciamo che in generale il brevetto e l'invenzione per essere brevettata dovrebbe soddisfare tre criteri, che sono quello della novità, dell'utilità alla risoluzione di un problema e la possibile applicazione industriale. Quindi a vedere questi criteri sembrerebbe che il materiale biologico in quanto esistente in natura non risponderebbe al primo criterio, cioè quello della novità, anche se poi storicamente già nel 1873 venne brevettato appunto un lievito responsabile della fermentazione della birra da parte di Louis Pasteur negli Stati Uniti. Diciamo che poi anche un passaggio importante in questa materia è stata la sentenza della Corte Suprema statunitense del 1980 nel caso Diamond contro Chakrabesky, che riguardava appunto la brevettazione di un particolare microorganismo che poteva in qualche modo digerire il petrolio. E appunto questo fu uno dei primi casi controversi riguardo la brevettazione di un organismo, un essere vivente. E dopo varie appunto vicissitudini giudiziarie, la Corte Suprema alla fine accettò l'esistenza di questo brevetto, mettendo in evidenza che la legge americana permette brevetti su ogni cosa sotto il sole fatta dall'uomo. E altre possibilità: negli Stati Uniti è possibile anche brevettare un cultivar, che sarebbe una nuova varietà di un organismo già esistente, e di questo abbiamo un esempio con i fagiali Enola, che poi magari ne parleremo dopo. Va bene, mettiamo un po' di musica e intanto poi continuiamo con questa intervista. Sono fuori dal sistema, fuori dalla scena, lontano da ogni legge scema che mi incatena. La terra crema quando i popoli si muovono. Tu le hai mai viste le bottiglie quando esplodono? Fuori dal sistema, fuori dalla scena, lontano da chi legge scema che mi incatena. La terra trema quando i popoli si muovono. Tu le hai mai viste le bottiglie quando esplodono? Coi palestinesi, coi baschi, coi greci. Sono tra quelli che considerate estremi, lontano dai tuoi premi letterari, musicali. Questa roba puoi trovarla nei centri sociali. Il richiamo della piazza, il lavoro che mi ammazza, un sogno ricorrente, lo sbirro che scappa, la ganja legale, lavorare quel che basta. Senza il capo che mi sfrutta e mi ricatta, l'affitto una rapina, la vita mi indovina, la rabbia con i tic, la chiudo dentro una cartina. Tante case vuote, tante gente senza casa, per stare al freddo meglio una casa occupata. Sarebbe tutto nostro, ma così non è, perché c'è chi dorme in strada e chi guida un M3. È tutto ingiusto, sbagliato, ed io sono lontano. Sono fuori dal sistema, fuori dalla scena, lontano da ogni legge scema che mi incatena. La terra trema quando i popoli si muovono. Tu le hai mai viste le bottiglie quando esplodono? Fuori dal sistema, fuori dalla scena, lontano da ogni legge scema che mi incatena. La terra trema quando i popoli si muovono. Tu le hai mai viste le bottiglie quando esplodono? La terra trema quando i popoli. Allora, rieccoci in diretta, hai ripreso un po' fiato? Sì, sì, a posto. Ok. Senti, hai già accennato qualcosa sulla un po' quella che è la legislazione americana, diciamo, statunitense in merito ai brevetti. Ci vuoi dire qualcosa sulle differenze tra appunto le norme che regolano i brevetti negli Stati Uniti e quelle in Europa? Sì, diciamo che appunto per quanto riguarda la legislazione europea, il brevetto diciamo deve rispondere a vari criteri. Quindi diciamo che deve essere innanzitutto un avanzamento rispetto a quello che è considerato lo stato dell'arte in materia. Poi l'invenzione non deve essere ovvia per chi abbia conoscenze riguardo al campo interessato dal brevetto. L'invenzione poi deve anche avere un'utilità industriale e invece non sono ammesse tutto ciò che è in conflitto con la moralità e l'ordine pubblico o anche ad esempio i metodi diagnostici o terapeutici e chirurgici. Questo, diciamo, questo criterio è stato adottato per cercare di mantenere la condivisione della conoscenza medica per il bene del paziente. Poi non sono ammessi vari brevetti riguardanti ad esempio la clonazione umana o la modifica dell'identità genetica degli umani o per esempio l'uso di embrioni per utilizzi commerciali o industriali. E anche non sono ammessi, diciamo, processi per modificare l'identità genetica degli animali che possa causare loro sofferenza senza nessun beneficio medico né per l'uomo né per l'animale. Per quanto riguarda invece la legislazione statunitense, questa è leggermente diversa, un po' più ampia. Innanzitutto la prima cosa da rimarcare è che la scoperta di un precedente inventore garantisce comunque diritti al successivo. Quindi ad esempio se dopo che uno ha brevettato una cosa si viene a scoprire che in realtà era stata inventata prima da un altro, quello che l'ha brevettata comunque mantiene determinati diritti. Poi l'invenzione deve avere non solo un'applicazione industriale come nella legislazione europea, ma anche in generale un'utilità, quindi questo rende le cose brevettabili molto più ampie, la legislazione è molto più flessibile. Poi negli Stati Uniti solo una parte terza che è stata danneggiata da un brevetto può intentare una causa, mentre invece in Europa chiunque può opporsi ad un brevetto. E poi negli Stati Uniti non esistono esclusioni legate a un uso diagnostico o terapeutico o basate sull'etica. E poi per quanto riguarda appunto il quadro normativo insomma della materia che stiamo trattando, ci sono anche altri strumenti internazionali diciamo degni di nota. E innanzitutto c'è la Convenzione sulla diversità biologica, che è stata adottata nel 1992, ratificata nel 1993, tra cui spicca, diciamo, la mancanza degli Stati Uniti come stato ratificatore. E diciamo che l'obiettivo di questa convenzione, che non si occupa diciamo di una specie in particolare o un sito in particolare, ha tre obiettivi primari, che sono la conservazione della biodiversità e l'uso sostenibile delle sue componenti, e poi abbiamo anche la giusta ed equa divisione dei benefici dell'utilizzo di queste risorse genetiche. Questo che vuol dire? Diciamo che con questo strumento si è cercato di porre un argine, un freno alla biopirateria di cui parlavamo prima, cercando in qualche modo di far ottenere ai paesi espropriati della loro conoscenza di qualche beneficio, sempre però a carattere economico, quindi non si prendono in considerazione minimamente altre problematiche se non quelle appunto economiche. E diciamo che tra le norme che vorrebbero proteggere la biodiversità e il sapere tradizionale, ci sono diciamo delle regole che impongono ai bioprospettori di ottenere un consenso informato per accedere alle risorse di questi paesi, e devono condividere ogni beneficio che ne traggono. Questi criteri sono stati anche poi in qualche modo ripresi e ribaditi in un successivo protocollo che è stato firmato nel 2010 credo a Nagoya, e che sostanzialmente si occupa sempre di queste tematiche sull'accesso e la condivisione dei benefici derivanti dalla commercializzazione di per esempio di medicine o altre cose che vengono derivate appunto dalle risorse naturali. Poi diciamo un altro strumento degno di nota sono i TRIPS, che sono diciamo degli accordi siglati nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che riguardano l'applicazione commerciale dei diritti di proprietà più o meno. E nell'articolo 27 soprattutto parla di cosa può essere sottoposto a brevetto, e per quanto ci interessa qui a noi, l'articolo che ne parla è il 27 al paragrafo 3.1b, in cui si dice che i membri possono escludere dalla patentabilità le piante e gli animali diversi dai microrganismi e i processi essenzialmente biologici per la produzione di piante e animali diversi dai processi non biologici e microbiologici. Poi i membri possono anche provvedere alla protezione di varietà di piante, quindi sì, vabbè, varietà di piante con brevetti o sistemi di protezione sui generis. Diciamo che questa norma apre un po' alla possibilità di brevettare organismi vegetali, visto che esclude soltanto determinate cose, ad esempio i processi microbiologici e i microorganismi possono essere brevettabili, e inoltre si pone in contrasto con le norme di cui dicevamo prima, perché non prevedono in alcun modo alcuna condivisione degli utili che ne deriverebbero, né un'informazione chiara alle popolazioni indigene piuttosto che i paesi in generale ricchi di biodiversità riguardo appunto all'esproprio delle loro conoscenze. Va bene, allora facciamo un'altra piccola pausa, così riprendiamo un po' tutti i fiati e poi continuiamo a parlare di questo argomento. Like the animals and tortured you, but still such a living hell. Some people think it's wrong to put profit before life. Some people think it's wrong to be born under the knife. Furthermore, a life of a true freedom fighter's gun. Barry Hall, Barry Hall, your memory lives on. Through the hopes and dreams and all the years of pain. Barry Hall, Barry Hall, your death was not in vain. Their example has failed, your death helps us unite. There's many masses wonder if this terrorist was right. Furthermore, a life of a true freedom fighter's gone. Barry Hall, Barry Hall, your memory lives on. Through the bumps and dreams and all the years of pain. Barry Hall, Barry Hall, your death was not in vain. Allora, eccoci di nuovo in diretta con la canzone troncata così a buffo, non da me comunque, si è interrotta, non so perché, va bene però, ritorniamo alla serietà, intanto vabbè, non so se dopo tutto questo lungo discorso che hai fatto ci puoi fare qualche esempio per capire di che cosa stiamo parlando, anche per quanto riguarda che cosa è stato brevettato, che cosa è stato riconosciuto. Ok, sì, diciamo, allora il primo esempio che mi viene in mente è quello dell'albero del Nim, che è un albero originario dell'India e della Birmania che ha proprietà medicamentose, tanto che viene chiamato la farmacia del villaggio e cura ad esempio il dolore, la febbre o le infezioni, dato che ha proprietà anche antisettiche, antivirali, ma anche anti, no, così dice, fungicide, antimicotiche. Boh, sì. Vabbè. Allora, o antifungine. Antifungine, bravo. Bravo. Allora, nel 1995 fu riconosciuto negli Stati Uniti un brevetto sulla tecnica di estrazione di un agente antifungino. E sulla stampa indiana questo fatto venne descritto come proprio un brevetto sull'albero stesso. In realtà era un brevetto su una tecnica di estrazione, però questo comportò un grande clamore pubblico sia in India sia poi anche all'interno della comunità internazionale. E anche in Europa nel 1994, anche prima, fu accolto dall'Ufficio Brevetti Europei la richiesta avanzata nel 1990 dalla multinazionale Grace e dal governo statunitense, che descrivevano questo brevetto appunto come un metodo di controllo degli attacchi da funghi sulle piante. 9 mesi dopo l'approvazione di questo brevetto venne proposto un ricorso da parte di un'eurodeputata e di Vandana Shiva e che ne hanno contestato il carattere innovativo dato che il Neem era già ampiamente conosciuto nella medicina ayurvedica e anche nel sapere agricolo tradizionale per le sue proprietà antifungine. E quindi nel 2005, dopo varie vicissitudini giudiziarie, il brevetto venne revocato. La cosa interessante è anche che le multinazionali interessate appunto a questo brevetto dissero che la conoscenza indigena delle proprietà del Neem, dato che non erano state mai pubblicate in giornali accademici o quant'altro, non appartenevano allo stato dell'arte e quindi secondo loro potevano essere considerate nuove. Quindi l'India adesso, in seguito anche a questa vicenda, facendo, sta provvedendo, diciamo, a tradurre antichi manoscritti in forma elettronica, così da proteggere il suo patrimonio dagli attacchi delle compagnie straniere. Poi una vicenda abbastanza simile a quella che ha interessato la curcuma, che è una pianta della famiglia dello zenzero utilizzata nella cucina indiana e che è utilizzata anche per curare le ferite. E nel 1995 il centro medico dell'Università del Mississippi ottenne un brevetto per l'uso appunto della curcuma nella cura delle ferite. Il Consiglio indiano per la ricerca scientifica industriale però ha fatto ricorso, sostenendo che appunto la curcuma era già utilizzata da migliaia di anni per la cura delle ferite e dell'orticarie, e a sostegno di questa tesi ha prodotto sia un documento pubblicato su una rivista accademica, sia un antico testo sanscrito, e anche in questo caso il brevetto fu ritirato. Poi, per quanto riguarda, faccio un ultimo esempio magari più attinente all'alimentazione, che è quello del fagiolo Enola, che è una varietà di fagiolo giallo messicano chiamata Enola dalla moglie dell'uomo che la brevettò appunto per la sua distinta tonalità di giallo. Dopo averlo brevettato, il detentore ha citato un enorme numero di importatori di fagioli gialli messicani, col risultato che appunto le vendite all'esportazione crollarono immediatamente del 90% e hanno causato appunto un danno economico a più di 22.000 contadini del nord del Messico che vendevano principalmente questo prodotto. Finalmente il 28 aprile 2008, dopo 8 anni, il brevetto è stato rigettato. Però questo comunque non saranno mai compensati appunto i contadini che non hanno potuto né coltivare né vendere questa varietà di fagiolo per oltre 9 anni, e questo ci dà un po' l'idea di quali danni possono scaturire da queste pratiche. Certo, va bene, ancora un po' di musica e poi continuiamo con la seconda parte, decisamente meno professionale, sulla questione della biodiversità, della perdita della biodiversità. Yeah, yeah. Sì. Cara sucia, ropa rota y manos peladas, es el recuerdo que guardo de esa mi infancia pasada. Mi familia, los colegas, la calle fue mi escuela, más las hostias recibidas por no hacer caso a mi vieja. El miedo era invisible, éramos invencibles, chulos y macarras, pero sobre todo humildes. Recuerdo con clareza, siempre jugando en la plaza, no podías respirar si te quedabas en casa. Y tú recuerdas la primera bici que te hizo volar, o las primeras heridas que en tu piel viste sangrar. Yo recuerdo como un triunfo, una tremenda caída, la primera sin ver lágrimas mojando mis mejillas. Cada minuto vivido de pequeños en la calle dejó en nuestras mentes recuerdos inolvidables, amigos inseparables, noches interminables, veladas agradables e inacabables. Y es así como forjamos la personalidad, pues toda experiencia influye en nuestra forma de pensar. Integridad de principios, y ya vendrán los vicios, y tocará saber lo que son los sacrificios. Sin oficio ni beneficio acabaréis, decían padres y vecinos que no nos comprendían, no entendían que colegas eran mucho más que hermanos, cortes y cicatrices, medallas para los enanos. Vamos, todas recordamos el dolor de un pelotazo, el orgullo de vencer a unos temidos adversarios, las juergas, las carreras por las calles de los barrios, o el calor del primer beso que chocó contra tus labios. No sabíamos perder, derrota era sacrilegio, queríamos aprender pero lejos del colegio. Así crecimos muchas un poquito más salvajes, recuerdos de una infancia grabados como tatuajes. Yeah. Fuimos los niños de los barrios, el corazón de los barrios. Somos los niños de los barrios. Échale un vistazo cualquier tarde a cualquier calle. ¿Veis niños jugando? ¿Veis chavales en portales? Cerebros entumecidos, me parece una derrota, como esos carteles de prohibido jugar a pelota. Y se nota que las ciudades son junglas de asfalto, niños cerrados en casa, el peor de los maltratos. Relaciones virtuales en portales de internet, videojuegos te desean lo que no vas a tener. Os creéis los reyes de un mundo ficticio y no sabéis cómo es el mundo más allá de un edificio. Sin principios crecen frustrados y cobardes. Las cosas en la calle, aunque más crudas, son reales. Irreales relaciones que no llamo personales. Amistades que se miden por cantidad de mensajes. Mi mensaje, sin experiencia intensa no se evoluciona. Y experiencias internet no proporciona. Decepciona ver chavales cada vez más dóciles, enganchados a consolas, a PCs, a móviles. Inmóviles neuronas que preparan un futuro de esclavos agradecidos que se venden sin escrúpulos. Relaciones vacías y si no, ya lo veréis. Acabarán vendiendo el culo en Fotologs o en MySpace. Fuimos los niños de los barrios, el corazón de los barrios. Somos la gente de los barrios, como los Warriors. Allora, rieccoci in diretta, appena parlo io è cascato il microfono, scusate. Ok, decisamente c'è un calo vertiginoso di professionalità, mi scuserete, però purtroppo appunto l'ospite che ha parlato precedentemente era molto più preparato di me. Comunque incomincerò a fare questo discorso sulla biodiversità raccontandovi di un botanico russo di nome Nikolai Vavilov, un importante botanico dell'Unione Sovietica, che poi è stato messo in secondo piano da altri botanici che invece sostenevano di più il pensiero di Stalin, che non era quello di un'agricoltura che fosse caratterizzata da varietà locali, ma appunto Stalin voleva che l'agricoltura fosse industrializzata, perché comunque doveva crescere la merce prodotta, doveva crescere il valore delle cose prodotte nell'Unione Sovietica. E appunto questo importante botanico russo, che ha vinto anche vari premi, ha fondato varie scuole e tra le altre cose ha fondato anche un centro di raccolta di semi, la prima banca dei semi del mondo. Lui ha passato tutta la vita a raccogliere semi antichi per non perdere varietà di piante e li ha portati in questa banca, in cui i semi vengono conservati a molti gradi sotto zero, almeno 21, dipende dalle varietà. Comunque la storia che vi vengo a raccontare è quella dell'assedio di Leningrado, in cui Vavilov si trovava all'interno di questo edificio dove c'erano tutti quanti i semi, e vengo proprio a leggere. Alla fine di circa 900 giorni di assedio di Leningrado, nel quale 600.000 persone morirono per le strade, anche 20 dei dipendenti della banca del seme dell'istituto Vavilov morirono di fame. Quelli che sopravvissero si nutrirono di segature e topi e tutto ciò che riuscirono a trovare. Il direttore responsabile della raccolta di riso al centro di ricerca agricola morì nella banca del gene, circondato da sacchi di riso. Erano persone che credevano realmente al detto che sarebbe poi diventato popolare. Queste risorse genetiche le abbiamo in prestito dai nostri figli. E quindi appunto queste persone hanno preferito morire piuttosto che far sì che andassero perdute questi semi di riso e di altre varietà che erano conservati nell'istituto Vavilov. Qual è la realtà delle banche dei semi oggi? La realtà è diversa, perché diciamo che le banche dei semi che esistono oggi, a parte quelle degli istituti di ricerca e degli istituti che appunto si occupano della conservazione dei semi, sono per lo più la risposta che è stata data dalle grandi multinazionali o dalle fondazioni che agiscono nei loro interessi per rispondere al problema della perdita della biodiversità. Infatti dagli anni 50 in poi, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, con alle spalle anche la Prima Guerra Mondiale che aveva dato già un bello scossone, la necessità di produrre cibo in maniera veloce e tanto portò l'agricoltura a cambiare drasticamente e inizia il modello di agricoltura industrializzata di massa. Questo porta ovviamente a una grande perdita di varietà di semi coltivati e quindi di piante coltivate. Basti pensare che in Italia a fine 800 esistevano circa 400 varietà di frumento, oggi, quindi stiamo parlando in tempi moderni, ne esistono circa 200 registrate, di cui soltanto 10 ne vengono coltivate nella maggior parte dei casi per produrre il pane, la pasta e tutte le altre cose con il grano che ci mangiamo. E un esempio di quelle che sono queste banche dei semi che appunto vengono usate così come specchietto della lodole per dire che la biodiversità in realtà non è perduta perché vengono conservati i semi, è quello della Rockefeller Foundation, che sostiene che il 95% della diversità genetica del grano, dell'orzo e del gran turco è stato raccolto e messo al sicuro nelle cerde surgelate delle banche genetiche. In realtà la situazione non è così rosea come viene dipinta dalla Rockefeller Foundation. Infatti persino Erna Bennett, primo membro del personale dell'Unità per l'Ecologia delle Colture e le Risorse Genetiche della FAO, osserva che il piano della raccolta del grano primitivo in Turchia corrisponde perfettamente a quello delle reti autostradali. Cioè, questi studiosi, anziché andare a cercare quelli che erano veramente le varietà di grano della Turchia, si sono fatti semplicemente un giro delle autostrade e hanno controllato quelli che erano i campi adiacenti alle autostrade, e cioè quelli appunto coltivati in maniera industriale, che contenevano pochissime varietà di semi, che poi spesso erano anche quelli che vendevano venduti dalle grandi multinazionali e non quelli tramandati dai tempi antichi. Vabbè, mettiamo un po' di musica e poi continuiamo. El edificio es un símbolo, como lo es el acto de destruirlo. Los símbolos solo tienen el valor que les da la gente. Por sí solo un símbolo no significa nada, pero si se unen muchas personas, volar un edificio puede cambiar el mundo. Yo no entiendo a quien mira hacia otro lado en este mundo que asesina y que tortura en el silencio más profundo. Presente es el futuro que en el pasado auguraron, esclavos de esta pesadilla que algunas soñaron. Guerras asolan países por interés de unos pocos, y aunque con los sueños rotos no nos comemos los mocos, yo prefiero no dormir, que venga y me coma el coco antes que ver a maestros curas comiéndome el coco. Pero a poco que te fijes, caerás en la cuenta de que el 90% al otro 10% alimenta. Y no dejes que te mienta el estado de derecho, unas en mansiones y otras aún no tienen techo. Y es un hecho que los bancos amasan fortuna, que unas derrochan aceite y otras cogen la aceituna. Y esta es una muestra de qué hace el capitalismo, aparte de no dejar que pienses por ti mismo. Oportunismo es un ejército de misión humanitaria. Todas saben que saquean, roban, violan, pero callan, vayan a la audiencia si no creen que se tortura, que observen el sadismo en su forma más pura. Más que duda la porra con que golpea un madero en una mani, mientras ríen los que visten Giorgio Armani. Como el nani perseguido hasta que te echan el guante, 20 años al maco o hasta que el cuerpo no aguante. Impactante la miseria, se te clava la retina como se clava la muerte cada día en Palestina. Asesina sociedad de lujos, de modelos, de tienes cuerpazo 10 u autoestima bajo cero. Pero dime lo que sientes tú que acudes a las urnas, que con tu voto eres cómplice de lo que ocurra. No confundas, no miento, es la tele quien lo hace. Responde sincero la pregunta que te voy a hacer, tú que eres testigo de este mundo insolidario. Allora, ritorniamo in diretta, sì. Continuiamo. Volevo chiedere se puoi dire che cos'è la rivoluzione verde e poi se ha portato veramente dei benefici ai contadini o no. Sì, allora, intanto la rivoluzione verde fu quella che fu presentata da Norman Borlaug, non so se sia questa la pronuncia, che così propose i suoi semi cosiddetti miracolosi, sostenendo che avrebbe trasformato una ciotola vuota, chiaramente riferendosi a quella dei paesi del terzo mondo che avevano poco cibo a disposizione, o comunque meno cibo dei paesi più ricchi, l'avrebbe trasformata questa ciotola vuota in un cesto pieno di pane e riso. Lavorò presso i laboratori biochimici della DuPont de Nemours, credo che si dica così, non lo so, è francese, e in seguito all'Istituto per la coltivazione del mais e del grano presso l'Istituto della Fondazione Rockefeller in Messico. Nel 1970 ha vinto per questa cosa anche il premio per la pace. La varietà di grano e riso a stelo corto e ad alto rendimento che aveva sviluppato appunto questo signore cambiarono effettivamente l'aspetto dei campi del terzo mondo. Ovviamente non lo cambiarono in meglio, infatti se da un lato veniva prodotto con meno acqua questo grano e in tempi più brevi e appunto con meno rischio di infezioni da parte di insetti, funghi, muffe eccetera, dall'altro in realtà si stava D'altro canto, comunque, c'erano anche degli aspetti negativi, ossia il fatto che questo grano non poteva essere usato, per esempio, la parte del grano che non si usa per così da mangiare per gli esseri umani non poteva essere usata per le bestie, non poteva essere usata per, diciamo, per fare i tetti delle case laddove questi venivano usati, e quindi, diciamo, c'era un surplus di materiale che prima veniva usato completamente per quanto riguarda il grano a stelo lungo, che anche se produceva meno chicchi veniva usato per intero, che in questo caso non poteva più essere usato. E oltretutto, per far crescere questo grano così in fretta e fargli fare così tanti chicchi, bisognava imbottire la terra di fertilizzanti. E poi anche qui c'è da fare un discorso, perché quando si parla di fertilizzare la terra in maniera così massiccia, in realtà si tratta di dargli essenzialmente tre nutrienti e non, diciamo, quindi l'ampia gamma di sostanze che stanno nel terreno, ma si tratta soltanto di potassio, azoto e ferro, credo, adesso non mi ricordo. Questo causa anche un impoverimento del terreno, perché il terreno è una cosa viva, ma quando viene così squilibrato in una maniera così pesante, il terreno muore, quindi tutti gli animali che vivono nel sottosuolo e che rendono il terreno una cosa viva muoiono, e quindi il terreno ha bisogno in continuazione negli anni a venire di essere per sempre concimato in questo modo. Per questa ragione, a distanza di tempo, queste varietà di grano e di riso che appunto sono state presentate nella Rivoluzione Verde non sono state più chiamate varietà ad alto rendimento, come era stato detto in principio, ma varietà ad alta risposta, perché appunto hanno una buona risposta laddove vengono dopate, tra virgolette, ecco. E niente, questo appunto ha causato non solo la morte di quelle che sono gli animali, come abbiamo detto prima, e la morte del suolo, ma anche la morte di tutte quelle che sono le erbacce e tra virgolette le erbacce che crescevano lungo i campi o intorno ai campi, che però facevano parte di un ecosistema più ampio e che comunque spesso venivano usate anch'esse per cucinare. Un esempio è quello delle risaie, dove a fine quando viene raccolto il riso venivano raccolti anche i pesci che vivevano nelle risaie, che fungevano da sono insettivori, comunque sono pesci di superficie, venivano mangiati anche i pesci, oltre che appunto uccidevano tutti quanti gli insetti. Con questo riso nuovo che viene coltivato, tutto questo non è più possibile, perché i pesci muoiono, il terreno muore e gli insetti spopolano, e quindi alla fine oltretutto c'è anche un danno di questo tipo, che diciamo un effetto boomerang anche per quanto riguarda gli insetti. Inoltre si stima che delle oltre 100.000 varietà locali di riso che venivano coltivate in Asia nel 1960, le varietà ibride create dall'Istituto di Ricerca Internazionale del Riso nelle Filippine le hanno sostituite quasi tutte. Ad esempio, la varietà seminata IR36 divenne il riso più coltivato nel mondo nel giro di pochi anni, al punto che nel 1981 il 70% del riso delle zone adibite alla coltivazione delle Filippine era occupato da questa varietà nuova che era stata creata ad hoc. Senti, ma allora, visto che appunto in realtà creano così tanti problemi queste varietà ibride, a chi interessano? Allora, intanto, innanzitutto dobbiamo dire che creare due varietà geneticamente diverse richiede una considerevole quantità di manodopera. E questo spiega anche il motivo per cui la produzione di queste bustine di semi è quasi tutta in paesi dove c'è un ampio sfruttamento dei lavoratori e il salario minimo è molto basso. Quasi tutte vengono prodotte in Cile, a Taiwan, in Kenya, in Indonesia, in Cina. Tuttavia, alcuni semi di pomodori ibridi possono venire a costare anche $12.000 al chilogrammo in Australia. L'ibridazione avviene naturalmente in maniera molto casuale, quindi può succedere anche in natura che ci sia un'ibridazione tra specie diverse, Ma nel contesto del commercio delle sementi, il processo consiste nella riduzione deliberata del patrimonio genetico di ognuna delle due varietà fino a isolare delle particolari caratteristiche di ognuna. Queste, quando combinate in un ibrido, soddisfano i programmi di selezione e i piani commerciali di vendita del prodotto. Quindi che cosa succede? C'è un impoverimento genetico di tutte e due le varietà e alla fine quello che si ottiene è una pianta che ha essenzialmente una caratteristica, perché lasciare comunque più geni che siano altri diversi a quello ottenuto rischierebbe di avere delle piante che non sono al 100% quelle che si volevano ottenere. In questo modo si ottiene l'uniformità delle piante, quindi abbiamo delle piante tutte quante uguali. Nel 1960 il 99% del gran turco seminato negli Stati Uniti e il 95% delle barbabietole da zucchero, il 95% del sorgo, l'80% degli spinaci, l'80% dei girasoli, il 62% dei broccoli e il 60% delle cipolle sono ibride. Che cosa succede con le sementi ibride? Succede che le sementi ibride quasi sempre non producono semi vivi, oppure producono semi vivi che però non hanno le caratteristiche genetiche delle, delle sementi che sono state piantate l'anno prima. E quindi che cosa succede? Che io contadino quest'anno compro le sementi ibride, le dopo con i fertilizzanti, i pesticidi eccetera, l'anno prossimo ho il terreno morto e quindi sono costretto di nuovo a piantare le sementi che ho piantato l'anno prima ibride, e non ho neanche i semi, quindi devo comprare un'altra volta i semi. Quindi questo che cosa crea? Crea una dipendenza dei contadini da parte delle aziende che producono questi semi e che chiaramente ne detengono anche il prezzo sul mercato, e comporta anche un impoverimento anche nutrizionale, oltre che dal punto di vista della biodiversità, perché ovviamente poi questi semi non valgono niente. Che questo è il quadro, diciamo, generale degli ultimi 50-60 anni. Adesso che sono state appunto inventate queste nuove tecnologie, la biotecnologia, anche gli organismi geneticamente modificati, qual è, cioè, che cosa è cambiato? Cioè, qualcosa di nuovo? Come? Sì, allora diciamo che con le nuove tecniche di appunto di con la possibilità di modificare i geni e il genoma, con le tecniche di bioingegneria si possono selezionare delle varietà, estrarre direttamente un singolo gene, quindi senza più fare gli incroci come veniva fatto prima, e si possono mischiare addirittura anche i geni delle piante con quelli degli animali. In alcuni esperimenti, per esempio, è stata trasferita la resistenza al freddo di un pesce guizzante nel fagiolo della soia e il gene responsabile della luce intermittente delle lucciole nella pianta del tabacco. Le cellule di ogni pianta contengono un nucleo centrale che comanda tutte le attività che avvengono dentro la cellula. All'interno del nucleo si trova il DNA, che possiede una molecola molto lunga costituita da migliaia di atomi, la cui disposizione può variare. E quindi, alterando il DNA, appunto, e mischiandoci il DNA di un'altra specie, non necessariamente appunto vegetale, si possono ottenere queste super piante che sono resistenti a degli agenti. Quindi, per esempio, si possono coltivare varietà esodiche sotto la neve e viceversa, ecco. A cosa serve questa cosa? Diciamo, questo qui è il bis di quella che è stata la rivoluzione verde, nel senso che ufficialmente viene spacciata con questa scusa così filantropica di buonismo verso i paesi del terzo mondo che non hanno da mangiare, i poverini, perché sono sfigati, perché le condizioni non lo consentono, e quindi bisogna fare queste piante che possano crescere anche queste piante occidentali o comunque non autoctone, che possano crescere comunque anche in ambienti ostili. Un esempio particolare di manipolazione genetica molto famoso è quello della soia Roundup della Monsanto. In particolare la Monsanto, che è l'azienda leader per quanto riguarda biotecnologia OGM e anche per quanto riguarda l'industria agroalimentare più importante del mondo, un colosso multinazionale molto potente. La soia Roundup è una soia che resiste ai pesticidi, e quindi tu puoi mettere la soia Roundup, spargere il pesticida Roundup, che è un pesticida che vende sempre la Monsanto, sono marchi registrati, un pesticida orribile che uccide tutto, inquina tantissimo, però appunto tu nel tuo campo non avrai più erbacce, non avrai più insetti, lumache, vermi, tutte quelle cose che possono ostacolare la crescita della tua coltivazione, perché tanto comunque la tua soia geneticamente modificata non rimarrà intaccata da questo prodotto, il Roundup. Questo appunto è una cosa molto, cioè, da criticare, perché si tratta, oltre che dal punto di vista chiaramente ecologista e dei fatti, appunto si tratta di inquinare e di impoverire ancora di più il suolo, e creando anche dei danni alle falde acquifere, agli animali, eccetera, tutto quanto, ma anche dal punto di vista ideologico va criticata questa cosa, perché si tende comunque a cercare di adattare l'ambiente e l'uomo alle esigenze dell'industria piuttosto che il contrario. Un altro esempio, gli scienziati associati all'industria esprimono la speranza di riuscire a manipolare i geni degli alberi europei minacciati in modo che possano sopportare le piogge acide. Quindi in questo caso anche non si pensa che il problema siano le piogge acide, ma si pensa che siano gli alberi che non sono abbastanza resistenti, e quindi si cerca di modificare quello. E, vabbè, non lo so, io potrei continuare, però forse anche no, magari si è fatto tardi, ho detto un sacco di cose sceme. Quindi magari mettiamo una canzone e poi continuiamo con la trasmissione. Ok. Fire! 2 milioni di agnelli e di capretti uccisi in un solo giorno. La tua Pasqua gronda sangue. Gli animali non si mangiano, si liberano. Si liberano. Allora, adesso passiamo un po' agli appuntamenti prossimi e a qualche notizia. Iniziamo col darvi l'appuntamento per lunedì 21 aprile dalle 13 alle 16 di un presidio contro il Franz KLM all'aeroporto di Linate contro la vivisezione. Allora, in occasione della settimana mondiale per la liberazione degli animali da laboratorio, dal 19 al 27 aprile, torniamo all'aeroporto di Linate per disturbare gli affari di Air France KLM e rovinare l'immagine di questa compagnia aerea complice della vivisezione e delle deportazioni di migranti senza documenti. Uno degli ultimi obiettivi della campagna internazionale di pressione Gateway to Hell è Air France KLM, principale trasportatore per via aerea di animali destinati ai laboratori di vivisezione. Sono migliaia i macachi catturati nelle foreste e costretti a lunghi viaggi aerei per essere poi smistati in tutto il mondo. Già molte compagnie aeree hanno ceduto alla pressione delle proteste e questo ha causato notevoli problemi logistici ed economici ai vivisettori. Air France KLM è inoltre parte integrante del meccanismo delle espulsioni. Assecondando le politiche razziste dei governi, con i propri voli deporta oltre i confini della fortezza Europa esseri umani solo perché ritenuti clandestini. Ricordiamo che la liberazione animale è liberazione da ogni forma di oppressione. Non tolleriamo nessun tipo di attitudine o comportamento sessista, fascista, omofobo, razzista o transfobico. Per ulteriori informazioni vi rimando al sito che è lalepre.noblogs.org. Leggiamo ora aggiornamenti da informazione.info sugli attivisti e attivisti arrestati per azioni contro l'industria della pelliccia. Il 15 di ottobre 3 attivisti e 2 attiviste svedesi sono stati arrestati con oltre 15 capi d'accusa, tutti relativi ad azioni dirette contro allevamenti di animali da pelliccia o contro persone che intendevano aprire nuovi allevamenti avvenuti in Svezia negli ultimi 2 anni. Dopo 3 giorni uno degli attivisti è stato rilasciato, in seguito anche una seconda è stata scagionata. Per le altre 3 persone, Richard, Carl ed Ebba, invece il processo si è svolto e concluso 2 settimane fa. Tutte e 3 le persone coinvolte sono state condannate per distruzione di proprietà, violazione di domicilio, minacce, molestie e solo una di loro è stata riconosciuta colpevole di incendio doloso. Lo scorso lunedì sono arrivate le condanne. Per uno degli attivisti la pena è stata sospesa, ovvero non dovrà restare in carcere, ma se commettesse un altro reato in dato periodo di tempo dovrebbe scontare anche questa precedente condanna. Per un altro la condanna è stata ad 1 anno di carcere e per la terza attivista la pena è di 2 anni e 6 mesi. In Svezia, come sfortunatamente in molti altri paesi, l'industria della pelliccia, dopo un periodo di declino, sta tentando di recuperare terreno, grazie soprattutto alle possibilità di profitto offerte dall'esportazione verso paesi come Russia e Cina. Si contano circa 65 allevamenti di visoni al momento attivi in Svezia ed 1 di cincilla. L'unica ragione per cui non ve ne sono molti di più è la determinazione del movimento di liberazione animale svedese, che non ha mai ceduto ed ha continuato ad esercitare pressione sia a livello locale con campagne ed azioni di liberazione e sabotaggio contro i singoli allevamenti, sia a livello nazionale con campagne coordinate contro questa industria sanguinaria. Al momento l'unico indirizzo ad essere diffuso è quello di Ebba, la compagna condannata a 2 anni e 6 mesi. Ebba ha piacere nel ricevere lettere e cartoline di supporto e notizie e aggiornamenti sulle lotte ecologiste ed antispeciste. Supportiamola scrivendole ora. Se non conoscete l'inglese è possibile inviare lettere di supporto in italiano alla mail al genova@autistici.org. Le tradurremo e invieremo ad Ebba. Se desiderate ricevere una risposta, includete nella lettera il vostro indirizzo. È stata inoltre lasciata una pagina Facebook di supporto www.facebook.com/supportebba. La solidarietà resta la migliore arma, usiamola. E poi segue l'indirizzo, insomma, se volete vederlo, vedete su informazione.info. Allora, sempre procedendo con informazione.info, vi segnaliamo anche 2 eventi. Intanto, vabbè, uno brevissimo, vi ricordiamo che tutti i martedì di aprile dalle 18 tisane e spuntino vegan presso la biblioteca anarchica Lidea per per il ciclo merende rigeneranti alla biblioteca Lidea. E poi invece un'iniziativa per chi ci ascolta da fuori Roma, a Torino in particolare, sabato 19 aprile dalle ore 19 a El Paso Occupato, nottata di delirio bestiale, dalle ore 19 aperitivo con Food Not Bombs, alle ore 20 dibattito con presentazione del libro Il Salto, spunti di analisi e critica sulla tematica animalista, Benefist Bestie in Lotta, e poi a partire dalle ore 00:00, quindi da mezzanotte, ci sarà il concerto con Collateral Damage, Cospirazione, Drunkards, Logica di Morte ieri. E credo che per questa sera sia tutto. No, forse tu hai ancora qualche cosa? Sì, ricordiamo che ci sono 4 persone ancora in stato di fermo dopo la manifestazione di sabato, e possono, che sono fermi a Regina Celi. E se insomma chiunque voglia mandare lettere e telegrammi può scrivere a Marabini Lorenzo, Matteo Pompea, Ugo Esposito, Simon Canca, Casa Circondariale di Roma, Regina Celi, Via della Lungara 29, 00165 Roma. Ovviamente a loro tutti va la nostra solidarietà. Va bene, allora dopo quest'ultima notizia credo che sia veramente tutto. Diciamo i nostri contatti, te li ricordi stasera? Ci proviamo, vediamo. La Gazza Ladra, @inventati.org per scriverci, e invece per vedere il nostro sito internet radiopossum.noblogs.org. Dai. Vabbè, allora come al solito un saluto e un abbraccio a tutti e a tutti coloro che sono privati della propria libertà personale, siano essi umani o no. Ciao. Ciao.